Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. Oggi parliamo di una persona che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere anche piuttosto bene, e una delle cose che ricordo principalmente di questa persona è il senso dell'ironia. Lui amava dire che la vita si era trasformata per lui in una vacanza, e quindi che in vacanza è impossibile prendersi troppo sul serio. Infatti è una persona che scherzava molto sugli altri, ma anche e soprattutto su se stesso. Era dotato di una grande autoironia, uno dei cantautori italiani più importanti di tutti i tempi, autore di canzoni bellissime di enorme successo per altri e per se stesso, e interprete di canzoni di altri che ha cantato e portato al successo lui. Quindi un'altra anomalia, una sensibilità incredibile e una voce unica e molto molto personale. Oggi parliamo del grande Bruno Lauzi. E raccontare Bruno Lauzi non è semplice, perché in una carriera durata dal 60 fino all'anno della sua morte nel 2006 ha scritto moltissime canzoni, come dicevo prima, in una rimbalzare di canzoni di altri portate a successo da lui, canzoni di Paolo Conte, di Battisti e di Mogol, e in un scrivere molte canzoni per altri, soprattutto per Mia Martini, Ornella Vannoni. E poi si è cimentato anche nella letteratura, nella poesia, ha scritto diversi libri di successo e poi tante altre cose: cabarettista, traduttore, anche un uomo politico per un breve periodo, viticoltore, e insomma un uomo e un artista poliedrico e pieno di interessi, soprattutto un uomo molto, molto spiritoso. Quando vedo una bella ragazza in giro dico: porca miseria, avessi 20 anni di più. E qualcuno mi ha detto una volta: come qua 20 anni di più, vuoi dire 20 anni di meno? No, 20 anni di più, così non ci penserei proprio. Sì, questo era lo spirito di Bruno Lauzi, uno che si divertiva a elencare tutte le persone per le quali era stato scambiato nelle sale d'attesa negli aeroporti: Lino Toffolo, Lando Buzzanca, Umberto Tozzi, Giorgio Albertazzi, una volta perfino uno che assomiglia a Bruno Lauzi. Invece lui non somigliava proprio a nessuno, perché era unico in tutto. Aveva un fisico piccolino, minuto inizialmente, un po' goffo, capelli ricci che portava lunghi, poi aveva una voce che aveva un vibrato naturale, caratteristico, inconfondibile. E dunque, partiamo da quando è nato: 8 agosto 1937 all'Asmara, sul suolo italiano dell'Eritrea, allora colonia italiana. Cresce a Genova, la sua amatissima città, che sarà sempre per lui una fonte di grande ispirazione, e insieme a De André, Paoli, Bindi, Tenco è considerato il massimo esponente della cosiddetta scuola genovese, a cui si fa risalire la nascita della canzone moderna italiana, insomma il primo cantautorato. È proprio con una canzone in genovese che si apre la carriera di Bruno Lauzi. Siamo nel 62 e partiamo già con la sua vena spiritosa e giocosa, perché la prima canzone, che si chiama Frigideiro, il frigorifero, e all'inizio tutti pensano che sia una canzone brasiliana a causa della evidente somiglianza tra il dialetto genovese e quello portoghese. Ma ascoltiamolo, perché è lo stesso Lauzi che lo racconta nel 74 nel programma Adesso Musica di Rai 1. Bruno Lauzi ad Adesso Musica. Bruno, non molto tempo fa andava di moda una canzone che tutti pensavano fosse brasiliana, e tu sai di quale canzone parlo. Ma qua, leggati da capo. Esattamente, questa. Ti metti in fresco un po' di birra per gli amici quando vengono a trovare stanno morti. Ecco, una canzone che tutti hanno pensato che fosse brasiliana, in realtà invece è una canzone genovese, genovese, sì. Cantata da un certo Miguel. Miguel e Caravana. Ecco, e chi è questo Miguel? Dunque, Miguel sono me. Miguel, sì. Miguel sono me. I Caravana invece sono i facchini del Porto di Genova, che avevano quelli grossi con il grembiulino verde per non rovinarsi i pantaloni quando portano le casse. Ecco. Per fare stacco con me, insomma. Diciamo. Riascoltiamo un attimino questa canzone. Facciamo un po' come la domenica sportiva, con la moviola, un po' rallentatore. E se è possibile, anche se l'hai fatto altre volte, cerca di tradurla questa canzone. No, viene troppo lenta, facciamola normale. Però sì, vabbè. Ma quando è che ti attaccati un frigidero, ma quando è che ti compri il frigorifero? Cosa aspetti quest'inverno su che vedeste? Cosa aspetti quest'inverno se ci vuole d'estate? Ma non ti pensi, da parte mi tiro io e i fagioli in me, perché non ci metti il burro, le uova e i fagioli con l'occhio? Lui me. È una canzone. Importante. E se il frigidero è l'esordio di Lauzi come cantautore, in realtà la passione della musica lui ce l'ha fin dai banchi di scuola, scuola che divideva con il compagno di classe Luigi Tenco. È con lui che negli anni 50 inizia a cantare e suonare, è un'amicizia che durerà fino a quando Tenco, che ha un carattere completamente diverso rispetto a quello di Lauzi, si suicida nel 67 a Sanremo, ammesso che Tenco si sia suicidato. L'esordio spiritoso di Bruno Lauzi gli apre le porte del cabaret, così arriva a Milano al Derby, al mitico Derby, dove lui fa alcuni spettacoli. Lui a Milano studiava perché aveva fatto prima la scuola interpreti, poi si era iscritto a giurisprudenza. Intanto scrive una canzone, siamo nel 63, e questa canzone ha un successo incredibile. Alla fine dell'estate risulterà essere la più suonata nei jukebox italiani. Lui la scrive di getto in soli 2 minuti, come racconta in un'intervista dove parla dei suoi amori sfortunati. Sfortunati si sono rivelati quasi subito. Intanto io da ragazzo ero abbastanza timido e quindi non ero sfacciato come adesso sono una volpe. Ma allora ero proprio sfacciato e quindi finivo sempre malissimo. So che ci ho messo 2 anni per dare un bacio a una ragazza e 10 minuti dopo che l'avevo baciata mi ha detto: ti dispiace se ti lascio? Dovevo averla baciata malissimo perché non sono mai riuscito a sapere perché. Però avevo scritto per lei una canzone pensando che prima o poi sarebbe ritornata. Si dice ci sono i cicli vichiani, questo ritorno della storia, e allora ho scritto Ritornerai. E Ritornerai è nata quasi di getto in 2 minuti d'orologio, mentre il mio amico col quale dovevo partire era sceso a comprare le sigarette. Quando è tornato c'era già la canzone. Il falco e il gabbiano. Ritornerai regala a Bruno Lauzi una popolarità immediata e un favore di pubblico che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. A dispetto di un carattere non facile, spigoloso, burbero, spiritoso quando voleva, insomma un carattere di quelli che non sono fatti per piacere unilateralmente. Intanto nel 63 arriva un altro successo, è una canzone che molti, soprattutto la critica, definiranno il suo capolavoro assoluto, uno dei manifesti della scuola genovese. La canzone si chiama Il Poeta, viene incisa prima da Gino Paoli, solo successivamente anche da lui. Molti anni dopo, anzi poco prima di morire, Lauzi con il suo solito spirito dirà che se veramente Il Poeta è stata la sua migliore canzone, allora la sua intera vita professionale era stata tutta un lento peggioramento, e non era vero. Parlando di te. Nel 65 lui partecipa al Festival di Sanremo con una canzone vagamente francese, si chiama Il tuo amore non va in finale, e questa rimane l'unica partecipazione al Festival di Bruno Lauzi, che ha avuto sempre un rapporto particolare col mondo dello spettacolo a causa di un carattere poco incline ai compromessi e di altre cose che vi racconterò dopo. Lui con quel genere di mondo, insomma, aveva poco a che fare. 2 anni dopo, nel 67, avviene l'episodio tragico di Tenco, è un evento che segnerà moltissimo Lauzi. Lui non ne parlerà per anni, non rilascerà dichiarazioni, anzi avrà parole di critica nei confronti di De André, che dedica a Tenco la canzone Preghiera di Gennaio, perché la ritiene una celebrazione postuma che poteva sembrare una macabra apologia del gesto estremo del suo amico. Intanto nel 68 Lauzi si sposa con Giovanna Coprani, che sarà la compagna, la collaboratrice di una vita. Tra l'altro con lei si dedicherà anche alla viticoltura, producendo un Barbera che si chiama La Celesta, un vino rinomato, apprezzato da me, ma questo conta poco, soprattutto da Luigi Veronelli. Nel 70 due signori che si chiamano Mogol e Battisti lo chiamano per un progetto nascente, che è una casa discografica, la numero uno, è una sottomarca dell'RCA, e Lauzi inizia una collaborazione con loro che diventerà storica, perché Mogol e Battisti scrivono per lui come interprete, alcuni tra i più grandi successi di quel periodo della canzone italiana. Allora a questo punto cosa succede? Che un po' per vigliacca, un po' per incapacità, un po' perché i poeti purtroppo nelle storie d'amore vengono sempre uccisi dai cattivi, si finisce molte volte per mettere su famiglia, o comunque unirsi, perché adesso non si parla più di mettere su famiglia regolare, ma insomma mettersi in coppia di qualunque tipo, perché ognuno si gestisce come vuole, perché qualcuno ti dice: beh, se tu ti metti con quella lì io ti apro un negozietto, io ti sistemo, io faccio una cosa. Quante volte succede ancora? E come se succede, si devono fare tutti i conti. E allora che cosa succede? Che uno che gli capita di accoppiarsi in questa maniera comincia a vivere come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, ve lo ricordate? Quello che di giorno faceva una cosa e di notte ne faceva, e lui, questo personaggio è uguale, sta a casa, timbra, però poi cosa fa? Con la testa vola via. Battisti e Mogol, che ne devono aver passate di tutti i colori in questo senso, hanno scritto per me questa meravigliosa canzone che fa: io lavoro e penso a te, torno a casa, penso a te, le telefono e intanto penso a te. E penso a te, amore caro, amore bello, L'Aquila, un uomo che ti ama. Bellissime canzoni firmate da Mogol Battisti, che in quegli anni furono il re Mida della canzone italiana, e portate a successo da Lauzi. Arriviamo al 72, che è un anno che rappresenta una svolta nella carriera del Lauzi autore, e anche in quella di una delle nostre interpreti più sensibili e straordinarie, perché Lauzi, insieme a Michelangelo La Bionda, su musica di Dario Baldan Bembo, scrive una canzone che si chiama Piccolo Uomo e la affida a Mia Martini. E nel caso del testo Piccolo Uomo, diciamo che anche lì non è stato influenzato dalla conoscenza con Mimì, che era molto superficiale anche per me al momento. È nato da questo testo, da una discussione in famiglia, dove io sono stato identificato con questo piccolo uomo che ovviamente mi stava addosso benissimo, e da lì è nato questo bisogno di scrivere questo testo. Era ancora un'epoca sana in cui gli autori e i compositori potevano scrivere le canzoni per i cantanti, esistevano ancora i cantanti che non erano tutti diventati cantautori, c'era ancora spazio per un eventuale Frank Sinatra, un eventuale Barbara Streisand, nel caso specifico per una cantante straordinaria come Mia Martini, che reggeva tranquillamente il colpo con le Mina e le Vanoni dell'epoca. E infatti Piccolo Uomo ottiene un grande successo, vince il disco d'oro, è il primo vero successo di Mia Martini, è una delle sue canzoni più fortunate, di lei e anche di Bruno Lauzi, che nel 2000 racconta proprio questo. Questa canzone noi gliel'abbiamo data ed è stata accettata al volo. Devo dire, avevo scritto un'altra canzone che poi è diventato un altro grandissimo successo, almeno Tu nell'universo. La cosa divertente è che nel 72, in questa settimana della primavera del 72, non mi ricordo quale mese, non pensavo di dover prendere nota allora, pensavo che fosse una cosa normale, avevo scritto queste due canzoni perché c'era una vitalità in questa piccola casa editrice che si chiamava Come il Vento, dove la gente, gli autori, i compositori si trovavano, passavano il pomeriggio assieme, tutti si scrivevano, e arrivavano gli artisti come Mimì per esempio, che arrivava e diceva: questo mi piace. Ecco, di quelle due canzoni devo dire che lei capì immediatamente il valore. Lei era una donna molto precisa, molto professionista, molto severa. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la vita, la carriera e le meravigliose canzoni di Bruno Lauzi, cantautore grandissimo, interprete raffinato, personale, sensibile, con una vita ricca di avvenimenti, di momenti sempre sottolineati dalla sua verve, perché lui aveva un umorismo sottile che non l'ha mai abbandonato, neanche nei momenti più difficili, neanche negli ultimi anni della sua vita quando era malato. Ma per adesso siamo arrivati al 1972, l'anno in cui Lauzi scrive la canzone Piccolo Uomo per Mia Martini. La scrive sulla musica di Dario Baldan Bembo e ascoltate cosa racconta in proposito a Bagnara Calabra nel 2005 in occasione del premio Mia Martini che gli viene assegnato alla carriera. Dario Baldan Bembo era convinto che non avrebbe funzionata perché questo piccolo uomo secondo lui era un suono brutto, l'avevo beccato che aveva detto all'editore: questa canzone non funzionerà perché agli italiani non piacerà questo piccolo, senti questo pipì. Io avevo visto questa scena, però lui non aveva visto me. Mi sono ritirato. La settimana dopo eravamo primi in classifica. Allora l'ho incontrato e gli ho detto: pirla, senti, pirla. Scusi maestro, sono qui con Dario. Bruno! Oh! Dov'è? Sono qui con Baldan. Bruno, sono qui. È lui. Pirla. Era questa grande compositore. Straordinario. Sì, sempre molto divertente, spiritoso, non si pone limiti, scrive canzoni per molti interpreti diversi: Mia Martini, Ornella Vanoni, Marcella, Orietta Berti, Mina, poi Donaggio, I Nomadi, Focaccia. E poi adattamenti di canzoni straniere di successo come L'appuntamento di Roberto Carlos, diventata uno dei cavalli di battaglia della Vanoni, Quanto t'amo di Johnny Hallyday, Il mondo è grigio e il mondo è blu di Eric Chardin, Lo straniero di Moustaki, canzoni di Paul Simon e poi assieme al sottoscritto un album di Loredana Bertè che si chiamava Carioca, dove io ho scritto molte canzoni e un paio le ha scritte anche lui. Era un autore grandissimo, ma anche un interprete sensibile, particolarissimo, e cantava canzoni scritte da altri. Oltre a Mogol e Battisti ci sono anche altre esperienze. Questa sera canto una canzone di Paolo Conte, che è l'autore delle canzoni di Celentano. Ecco, quello di Celentano, quello di Azzurro, diciamo, la coppia più bella del mondo. Quella lì, che ha fatto una canzone per me stupenda, che poteva essere in un certo senso la sigla, così, la colonna sonora del film Polvere di Stelle di Sordi e Ravitti, oppure poteva essere un caso così, un seguito a quell'avvento del Rex di Fellini nella Marcord, perché è la storia di uno che casca da una nave durante un ballo di bordo. C'è questo transatlantico che va, lui cade e voi penserete sia una canzone tragica, invece no. Perché? Perché è una canzone italiana. Perché l'Italia è ancora è l'ultimo paese al mondo che fa ancora ridere. Cioè, nel senso che è l'ultimo paese al mondo che ha ancora voglia di ridere. Ecco, cioè noi abbiamo voglia di ridere. Perché? Perché gli italiani galleggiano sempre, cioè non affondano mai. Qualunque cosa succeda, vai a capire com'è, si salvano. E infatti anche questo di questa canzone c'ha tutta un'avventura, ma vedete, questo è veramente un film in Technicolor. Onda su onda. Onda su onda, il mare li porterà. Verso la metà degli anni 70 Lauzi scrive canzoni per bambini, e tra le quali hanno successo La tartaruga, Johnny il bassotto, scrive per lo Zecchino d'Oro, anche perché nel 69 è diventato papà, è nato suo figlio Maurizio, che è un cantante anche lui, anche che fa cose interessanti, quindi probabilmente la paternità, come spesso accade, è intervenuta nel suo processo creativo. E poi c'è un'altra canzone di Paolo Conte che Lauzi incide in questo periodo e rimane a tutt'oggi non solo uno dei maggiori successi di Conte e di Lauzi, ma anche un manifesto riconosciuto da tutti della scuola cantautorale genovese, Genova per noi. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Un altro anno che decreta un grande riconoscimento artistico a Lauzi è l'89, perché la sua canzone Almeno tu nell'universo, quella che aveva scritto assieme a Piccolo Uomo nel 72, quindi una canzone che rimane nel cassetto 17 anni perché era troppo avanti per i temi trattati, viene data a Mia Martini. Mia Martini va a Sanremo, vince il premio della critica, entra nella storia della canzone italiana, diventa un classico intramontabile e una delle, forse la vincitrice morale di quel festival dell'89. Beh, questa non è solo una grande canzone, è una grande prova d'autore di Lauzi e dimostra una profonda conoscenza dell'universo femminile, e d'altronde lui in tutte le sue interviste ha sempre dimostrato una grande ammirazione per il mondo femminile, che è indispensabile secondo me se vuoi scrivere canzoni su quell'argomento. Forse ne so qualcosa anch'io. Beh, io avrei dovuto essere sfigatissimo e Nicola Di Bari avrebbe dovuto buttarsi sotto un treno, invece siamo sopravvissuti tutti al nostro aspetto non estremamente, come si può dire, procace. Beh, devo dire una cosa delle donne, a vantaggio delle donne, dell'intelligenza delle donne, perché se le donne scegliessero gli uomini come noi scegliamo le donne, con gli stessi criteri di piacevolezza estetica, due terzi di noi sarebbero in giro come dei barboni da soli per le strade. Per fortuna le donne guardano alla testa, guardano al cervello, guardano molto più in profondo di quello che guardiamo noi. Meno male, questo mi ha riscattato, perché l'intelligenza è un surrogato della bellezza e della forza fisica. Cioè, se fossi stato anche scemo sarei stato rovinato, invece è andata bene, e di donne che si sono innamorate di me, per fortuna ce ne sono state. I più attenti si ricorderanno che anche Bukowski disse una frase del genere riguardo alla superiorità della donna che sa scegliere l'uomo non solo per canoni estetici. Comunque, dopo tutta questa trasmissione qualcuno si chiederà: ma allora perché non si è parlato di Bruno Lauzi così come lui meritava? Perché Bruno Lauzi non viene considerato uno dei più grandi? Beh, la risposta ce l'ho. Perché Bruno Lauzi va controcorrente, e quando tutti i cantautori militano a sinistra, lui si dichiara un liberale, un uomo di centro con un piede nella tradizione e uno nel futuro. E quindi succede una trafila che io conosco benissimo. Quindi eliminato dai salotti televisivi della sinistra, scompari da Rai 3, scompari di qua, scompari di là, e quindi, siccome quel mondo ti esclude con il silenzio, Bruno Lauzi paga a carissimo prezzo il suo non essere di sinistra. Negli ultimi anni della sua vita si ammala, viene colpito dal morbo di Parkinson, riesce però a mantenere intatta la sua verve, il suo senso dell'ironia, tanto che al signor Parkinson, che lui identifica come una sorta di ufficiale inglese a riposo, lui scrive addirittura una lettera, della quale ascoltiamo uno stralcio recitato dalla voce di Lidia Sbalchiero. Egregio signore, non è con piacere che le scrivo questa lettera, ma d'altra parte avrei dovuto parlarle a quattro occhi, affrontarla di persona e soprattutto sopportare quel suo subdolo modo di fare, che è di quanto c'è di peggio per far perdere la pazienza anche ad un santo, figuriamoci a me. Le scrivo, come può notare, con il computer, perché la mia calligrafia si è fatta illeggibile ed è così minuscola che i miei collaboratori devono usare la lente di ingrandimento per riuscire a decifrarla. Perché le scrivo? È presto detto. Io ho superato con una certa disinvoltura l'imbarazzo che lei, e lei lo scrivo in minuscolo perché lei il maiuscolo non se lo merita, dicevo l'imbarazzo che lei mi ha creato chiedendo pubblicamente la mia mano ed ovviamente ottenendola. Ora, convivere con un ufficiale inglese a riposo, già condannato per ripetuti tentativi di violenza neurologica su qualunque essere umano di qualunque specie, non è stato facile. La mia è una famiglia all'antica e non ha apprezzato. Ma ora lei sta esagerando. Signore, glielo devo dire, quando è troppo, è troppo, è troppo, stroppia! E poi arriva un cancro al fegato al quale Bruno Lauzi non sopravvive, muore non ancora settantenne il 24 ottobre del 2006. Fa in tempo a pubblicare un ultimo romanzo dal titolo curioso, Il caso del pompelmo levigato, che è un giallo filosofico pieno di ironia, dove ancora una volta lui dimostra le sue straordinarie doti d'autore e anche la sua allegria, la sua gioia di vivere, come ricorda anche suo figlio Maurizio. La sua presenza era una cosa molto importante, anche quando non c'era io ero abituato al fatto che lui non ci fosse, ma la sua presenza si sentiva, una parola in più di conforto, una telefonata che gli potevo fare, quante volte vorrei chiamarlo per fargli sentire magari un accordo o per un'idea, lui mi correggeva le frasi, i testi, le parole. qualche volta ho provato, forse sono anche riuscito a correggere io a lui un accordo o due. Sì. Abbiamo scritto insieme delle cose molto belle, tra cui Il tempo per vivere, 10 belle canzoni d'amore, alcune canzoni che poi sono state, e lui ha cantato delle canzoni mie, ma era il consiglio, la parola di conforto, il fatto che lui facesse anche da mediatore, perché io e mamma siamo due caratteri, lei Cancro, io Scorpione, amore e odio, non è mai stato facile. Papà era un po' l'arbitro, faceva l'artista, però c'era, e quando c'era lo sentivi, poi a tavola, lo suo spirito a tavola, ecco, mi manca anche quello, mio padre a pranzo era un'allegria. Una grande carriera e tante cose lasciate da questo cantautore che è stato un po' messo all'angolo da un establishment che non gradiva il suo essere un uomo libero, ma che ha saputo lasciarci tante cose. Lui è riuscito, ha tentato, ha avuto cadute e risalite, ma tutto sommato può appartenere a buon diritto al gota del cantautorato italiano, vi piaccia o non vi piaccia. Ciascuno di noi nella sua vita può dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se avete idee, commenti da lasciare, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al sito www.radio24.it oppure venite a cercarci e a cercarmi nei miei e nei nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno.